известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. Well, I disagree, and I think that's why we passed a thing called the Detainee Treatment Act, which prohibited cruel, inhumane, or degrading treatment. And ricordate questa voce con questa particolare zeppola, se me la passate, che beh, insomma, a un certo punto del nostro programma impazzava da queste parti, perché appartiene a John McCain, cavalleresco, per quanto sconfitto, avversario di Barack Obama nel corso delle presidenziali 2008. John McCain è tornato a fare il suo lavoro, e il suo lavoro principalmente è quello di politico trasversale, affiancato in questo forse più che da chiunque altro da Joe Lieberman. Sono i Maverick, sono gli indipendenti della politica americana, che questa volta sono scesi in campo con una certa decisione, anche con un tono piuttosto intransigente, come sentivate poco fa nell'estratto audio che vi abbiamo presentato in apertura, per prendere posizione sulla questione del perseguimento da parte, non si sa ancora esattamente di chi, ma dalla possibilità di un perseguimento dei responsabili, dei titolari, di coloro che attuarono a suo tempo quelle famose tecniche di interrogatorio aggressive, come si dice in gergo tecnico, che però sono ormai equiparate a tutti i livelli con torture vere e proprie su prigionieri accusati di essere terroristi. E McCain, insieme a Joe Lieberman e anche a Lindsey Graham, un altro veterano della politica americana, hanno fatto una presa di posizione sulla questione. Hanno detto: non siamo d'accordo con la posizione dell'amministrazione secondo cui anche gli avvocati che hanno dato consulenze legali dovrebbero essere perseguiti, e soprattutto non siamo d'accordo con questo sguardo verso il passato. In sostanza non condividono che si vada a rimettere in discussione ciò che a suo tempo, a torto o a ragione, comunque venne autorizzato dall'amministrazione. Ci sono anche l'amministrazione Bush, ci sono anche i principali giornali americani che tornano sulla vicenda di questi interrogatori ai sospetti terroristi e su quanto fecero gli agenti della CIA e di altre organizzazioni con autorizzazione da parte della Casa Bianca nell'utilizzo, appunto, soprattutto di questo waterboarding, no? L'annegamento simulato, ma poi anche tante altre tecniche spietate che passavano attraverso la privazione del sonno, l'esposizione al freddo, a rumori spaventosi e quant'altro. Il Washington Post oggi in prima pagina presenta il retroscena del dibattito che si sarebbe svolto all'interno della Casa Bianca il 15 aprile, quindi 9 giorni fa, il famoso dibattito al termine del quale poi c'è stata la pubblicazione, la resa nota dei memos relativi alle torture. La riunione sarebbe svolta nell'ufficio di Rahm Emanuel, il capo dello staff di Obama. Oltre allo stesso Barack Obama erano presenti una dozzina di consiglieri e funzionari, il direttore della CIA Leon Panetta, almeno 4 suoi ex predecessori, tutti costoro erano contrari alla diffusione dei memo fino a quel momento segretati. Poi c'era il segretario della giustizia Eric Holder, il primo segretario della giustizia afroamericano, poi il segretario della difesa Robert Gates, il capo dello Stato Maggiore Unificato, l'ammiraglio Mike Mullen, e tutti questi personaggi erano favorevoli. Gates avrebbe appoggiato in particolare la decisione di pubblicare i documenti riservati, in quanto considerava inevitabile la diffusione di queste informazioni, perché la Casa Bianca si era comunque impegnata a garantire l'immunità degli agenti CIA responsabili degli abusi. Insomma, si doveva sapere, ma al tempo stesso non si doveva perseguire. E un funzionario che era presente alla riunione avrebbe riferito che Obama ha chiesto ai presenti nella stanza di esporre in forma di dibattito le due linee di pensiero, una persona che argomentasse a a favore della pubblicazione dei memo e una contro. Alla fine il presidente avrebbe seduta a stante dettato la bozza del discorso con cui poi il giorno dopo, il 16 aprile, ha annunciato la decisione di rendere noti questi memo. C'è anche un articolo del New York Times a riguardo che riferisce invece che il presidente a questo punto sta subendo forti pressioni da membri del suo stesso partito per dar via libera alla istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente che faccia piena luce sulla vicenda e in particolare sulla autorizzazione concessa da Bush all'impiego di tecniche di interrogatorio oggi giudicate illecite. Obama non vorrebbe cedere. La questione come dire, è un vero cuneo, no, nel meccanismo molto delicato degli equilibri del Congresso in un momento come questo, dove ricordiamo la priorità è sempre quella economica, mentre qui si potrebbero accendere dei focolai di guerriglia interni al Congresso su un argomento che in un certo senso è certamente di una gravità assoluta, ma che diventa un altro argomento a fronte delle priorità che gli americani devono affrontare. A mettere altra benzina sul fuoco arriva la notizia che il Dipartimento alla Difesa americano il 28 maggio, quindi tra poco più di un mese, pubblicherà nuove fotografie di abusi commessi da personale statunitense su detenuti in Iraq e in Afghanistan, ma non scattate nel famigerato carcere di Abu Ghraib vicino a Baghdad, ma in altre prigioni. A comunicarlo è la ACLU, la American Civil Liberties Union, il gruppo che difende e propugna le libertà civili americane, da sempre in polemica più o meno accesa con la Casa Bianca. E Amrit Singh, che è il legale di questa organizzazione, dice: queste fotografie forniscono la prova visiva che gli abusi commessi dal personale statunitense non erano una aberrazione ma una pratica diffusa anche al di fuori delle mura di Abu Ghraib. In sostanza la questione non sembra destinata a spegnersi, anzi in un certo senso sembra la coda avvelenata dell'amministrazione Bush, destinata presto a riprendere vita, a riaccendersi con virulenza in una amministrazione che forse in questo momento preferirebbe, come Barack Obama fa capire, dedicarsi ad altre cose. Non sono cronache leggere, motivo per cui alleggeriamo un momento i toni e chiamiamo in causa la First Lady, Michelle Obama. Oh, he is a crazy dog. He loves to chew on people's feet. It was like 10 o'clock at night. Everybody was asleep and we hear all. Insomma, ti mangia sui piedi, boh, dice Michelle Obama. Ma sentiamo ancora. And it was just Bo. He was playing with this ball and it was like there was another person. Questo è il gossip, come dire, della peggior qualità che vi possiamo offrire, ma che ci sentiamo obbligati a farlo perché siamo certi che vi state torturando per sapere qualcosa di più delle avventure di Bo, il cane presidenziale, il first dog, il cane portoghese da acqua, una razza fatta praticamente apposta per la Casa Bianca, che adesso Michelle Obama ha appena descritto con questi toni metallicamente, secondo me un po' falsamente entusiastici, perché pare che sia un casinista formidabile e che quando la prima famiglia d'America va a dormire, papà, mamma e due bambine, boh, fuori dalla porta arma un macello memorabile, e al punto che il presidente si alza in pigiama, no? Si mette le pantofole, infila la vestaglia, va di là, dice: chi c'è qua che dà fastidio? E pare che ci sia boh che gioca con la pallina, per cui il futuro di boh, secondo me, è altamente a repentaglio. Peraltro le foto che lo ritraggono, che potete trovare su qualsiasi sito internet, adornato di una, come dire, appiccicosa, fastidiosamente carina collanina di tutti i colori, rende l'animale per ora bassissimo le nostre così simpatie, però siamo certi che poi Bo si saprà costruire una reputazione, del resto con tanto, no, tanto esempio, tanto di padrone, saprà decollare verso le migliori sponde lì dalla Casa Bianca. Tra poco arriva Facebook e Express Yourself e si parla di carte di credito. Make me a deal and make it straight. Oh, Sembra puntuale, insomma, la critica che ci invia via SMS 349-238-6666 un ascoltatore che dice questo voleva cambiare questa però è la signora, ascoltatore, questo voleva cambiare il mondo e fare conferenza sul cane. No, preciso, Barack Obama per fortuna ancora non fa conferenze su bolle, fa la First Lady che risponde probabilmente a domande dei giornalisti. Secondo me in conferenza stampa 8 domande su 10 che si becca Michelle Obama sono sul cane, che sta naturalmente già antipaticissimo a tutti, e lei risponde cercando di farlo sembrare simpatico. Poi sapete com'è la politica americana, se non funziona lo buttano a mare tra un po', cioè lo mollano. Vuol dire che Obama non ha giurisdizione sulla moglie? No, la cosa è più complessa. Se andate su internet ci sono fior di servizi filmati con Obama che corre col cane, il cane che corre con le bambine, il cane al guinzaglio, soprattutto il cane con questa collanina multicolore. Non l'hai visti tu? No, me la sono perso. Sto pensando intanto all'orto, che è anche quello altro argomento caro a Michelle. Presto l'orto. Express yourself. Fare la First Lady, se fai la First Lady come te la metti col problema della carta di credito, che è un problema che in questo momento sta torturando un po' tutti gli americani, perché sta cambiando il rapporto degli americani con le carte di credito, con il credito, con il consumismo, con i soldi che non si hanno, e sta cambiando anche il rapporto della Casa Bianca con le grandi case, no, dei grandi marchi di credito americano come Visa, Mastercard, Wells Fargo, JP Morgan, cioè, insomma, Obama ha incontrato i responsabili, prova a mettere freni alle commissioni, limita le penali ai clienti. L'American Express conteggia una contrazione dei profitti del 58%, i consumatori americani cercano di spendere meno possibile, la carta di credito, no, che ci avevano insegnato a noi italiani un po' refrattari a usare questa carta di credito, anzi i negozi che non la accettano ancora sono tanti, ci avevano insegnato che si era un po' Metropolitan, anche un po' metrosexual. Io la uso poco. Non sei metrosexual con la carta di credito. Adesso invece ci dicono che non è così metrosexual usare la carta di credito, anzi è un rischio micidiale. Allora vi abbiamo chiesto, siete contenti, siete depressi, e soprattutto questo fatto che il consumatore contemporaneo è sempre questo inerme, no, ingenuo, che spende soldi che non ama perché non ha capito, perché gli hanno dato la carta di credito, insomma, che è tanto cappuccetto rosso. Ma è davvero così, siamo tutti cappuccetto rosso? Ma io d'altra parte ho sempre avuto in famiglia il modello di mia madre, sì, che è donna concreta del Polesine. Parlacene. Che tuttora ha paura del bancomat, neanche delle carte di credito, ah, diffida di tutto ciò che non è carta e si arrotola. Le plastics. Le plastics, no, esatto. No plastics. Invece c'è Antonella, nostra amica intervenuta anche in trasmissione, che scrive: le carte di credito in quanto tali, se usate con grano salis, sono uno strumento utile. Il problema è che negli ultimi decenni l'uomo della strada ha svolto un doppio ruolo: da un lato consumatore spinto, dall'altro, giocando in borsa, si è sentito persino imprenditore e beneficiario di questo sistema. Lettura interessante. Poi c'è Massimo: il fatto di non spendere fisicamente dei soldi quando si compra può effettivamente trarre in inganno, ed è proprio ciò su cui puntano le società di credito, favorendo addirittura il rientro rateizzato. E infine c'è Mukeba sferzante: come spesso è, tutto questo spinge a spendere mi ha sempre lasciato perplesso. Che senso ha necessità di possedere, avere, spendere, espandere come status symbol? Che tristezza. Ma il consumismo, ragazzi, ci siamo, no? Mukeba dice questo. Siamo nel post-consumismo ufficiale. Flavio, rettangolino è uno strumento per esercitare un problema nato e coccolato altrove, quindi problemi di importazione. Francesco, personalmente eliminerei il contante. Vantaggi, riduzione delle rapine, impossibile l'evasione fiscale. La modernità dovrebbe andare a quella parte. È interessante che questo. Luigi, l'utilizzo della carta di credito è un'abitudine che ben si sposa con la bolla economica finanziaria che ha causato l'attuale crisi. In fondo spendere soldi che non hai è del tutto analogo a fare un mutuo che non puoi sostenere. Invece c'è Paolo per la serie La rivincita di Nerz, perché dice: mi sa che tra qualche mese la disastrata Italia diventerà un fulgido esempio per il resto del mondo, eppure ci bastonano per il debito pubblico e viva il rotolone. Ma infatti noi abbiamo intitolato, ce l'avevamo dimenticato di dirlo, questa puntata di Express Yourself, il rotolone e banconote, non a caso. Quelle che un po' il campagnolo insomma tira fuori, il rotolone e banconote per pagare, e tutti lo guardano con un certo disgusto, no? Poi invece c'è Michele, che secondo me fa parte dell'esercito delle partite IVA, cosiddetto partite IVA, che scrive: in Italia quel tanto vituperato sommerso del 30-40% che gira in banconote ci ha salvato dall'essere cornuti e mazziati come i bravi scandinavi. Poi col contante si pagano i sani divertimenti senza essere troppo controllati. Giovanni, perfida, esatto, infatti era interessante questo finale. Giovanni, a volte con le carte, poi non indaghiamo sui divertimenti, certo. Giovanni, a volte con le carte di credito tra le mani si diventa come il bambino col barattolo di Nutella aperto in attesa che mamma venga a spalmarlo sul pane. La tentazione è irresistibile e allora giù di dito. Simone dice che usa la carta di credito regolarmente per comodità, ma che non ha mai ceduto alle tentazioni delle carte revolving, quelle praticamente ingestibili che hanno complicato la vita agli americani, quelle che si rateizzano, poi dopo un po' perdi il segno, non capisci più quelle niente. Quelle che apparentemente non finiscono mai, ma quelle poi che non finiscono mai e che continuano a caricare poi, no, di volta in volta. Stefano, passo sempre per quella controcorrente, per quello controcorrente quando parlo di queste cose, ma dal commerciante quale sono, dico che gran parte di questi problemi viene dal pueblo, che ha la carta in mano e la usa sempre e comunque, idem coi finanziamenti. Infine Giampiero, il problema a mio parere sta nell'ignoranza finanziaria della gente, che non percepisce il rischio in modo corretto, non controlla gli estratti conto, ma d'altronde chi può essere competente in tutti i campi? Quindi siamo un po' cappuccetti rossi, secondo me c'è una certa, no, tendenza a, come dire, a scrollarsi di dosso le responsabilità, fare quattro conti come tua mamma, secondo me mia madre non è mai sa fare. esatto. I love my father. I love my sisters too. I bought this guitar to pledge my love, to pledge my love. Nell'immaginario collettivo jihadista, dissanguare l'economia americana fino alla bancarotta è una tattica importante della guerra di liberazione economica, che, come le crociate, potrebbe coinvolgere più di una generazione. Questo, in qualche misura, è il prologo ideale e il progetto economico dell'11 settembre. Naturalmente, si tratta solo di retorica ed elaborazioni fantastiche. Bin Laden e la sua organizzazione non sono certo in grado di fiaccare l'economia statunitense. Paradossalmente, però, dopo l'11 settembre, questi sogni iniziano a prendere forma proprio perché ingenuamente l'America cade nella trappola ideologica tesagli dal Saudita. Dopo la tragedia delle Torri Gemelle, costruisce essa stessa la retorica che ingigantisce il potere di Al-Qaeda. Con tenacia e determinazione, la propaganda americana dipinge l'avversario come un nemico vero, temibile, di grandi proporzioni e con ramificazioni un po' dovunque, anche e soprattutto in Iraq. Allora, buongiorno, in studio il nostro ospite Loretta Napoleoni, economista, esperta di terrorismo internazionale, residente a Londra. Buongiorno, buon pomeriggio. Grazie, buongiorno. Tra l'altro, se posso aprire subito una piccola parentesi, con una nota biografica molto interessante all'interno del suo nuovo volume che si chiama La Morsa, che ora presenteremo insieme, dove racconta, insomma, in un piccolo spunto biografico, a un certo punto di essere andata via dall'Italia, perché qui le prospettive non erano sufficientemente allettanti, o forse non erano proprio non c'erano proprio. Infatti dico che io sono in realtà un'emigrata, certo. Sono dovuta andare all'estero a trovare lavoro. Da 30 anni si occupa di questi argomenti da essenzialmente da Londra, dagli Stati Uniti. Ha pubblicato per Chiare Lettere ora un saggio intitolato La Morsa, le vere ragioni della crisi mondiale, distratti da Al-Qaeda, derubati da Wall Street, come ne usciamo? Questi sono i sottotitoli, ed è un libro penetrando nel quale, insomma, la prima cosa con la quale si viene a contatto è una serie di verità negate, come le chiama Loretta, no? Più che un grande complotto, una specie di caso di grande collettivo colpevole silenzio in cui poi il cittadino, insomma noi normali, sembriamo lontanissimi, no? Alla faccia del progresso, sembriamo lontanissimi dal poter venire a conoscenza di come stiano veramente le cose. È un po' questo il senso, sì, l'ambientazione. Sì, sì, no, questo è il senso, che praticamente noi non sapevamo in realtà cosa si celava dietro la guerra contro il terrorismo, né conoscevamo le vere dimensioni, il vero potere, diciamo, di Al-Qaeda. Quindi abbiamo creduto a tutto quello che ci è stato detto. E ci è stato detto, ci sono state dette tante bugie, per esempio. Saddam Hussein non aveva assolutamente nessuna relazione con Al-Qaeda, anzi, al contrario, li teneva a distanza perché li temeva, non c'erano le armi di distruzione di massa, quindi la relazione tra l'Iraq e l'11 settembre è una relazione completamente costruita dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, in particolare parliamo dell'Inghilterra, ed è proprio questa relazione che paradossalmente innesca un meccanismo che gonfia questa bolla finanziaria a dismisura. La bolla finanziaria in realtà nasce negli anni 90 con la politica dei bassi tassi di interesse perseguita da Greenspan, certo, certo. Però diciamo, questa politica avrebbe creato una crisi di proporzioni molto minori di quella attuale, e molto probabilmente sarebbe stata una crisi a carattere ciclico, come spesso diciamo noi abbiamo. In realtà questa è diventata una crisi epocale, nel senso anche una crisi sistemica, cioè di sistema. Un cambiamento definitivo. Sì, un cambiamento definitivo della portata proprio della grande depressione. E queste crisi avvengono, di cui forse in Italia abbiamo ancora una percezione, secondo me, parziale, no? Non completata, e forse anche un po' così, un po' sospettosa, come se poi alla fine, no, si ha da finire nuttata, insomma, siamo ancora su. Ma La sostanza della curiosità che noi confronti questo libro è a un certo punto le paure, no, dei neocon, dei gabinetti teorici alle spalle dell'amministrazione Bush, l'elaborazione dell'asse del male, tutto questo mondo che ci è stato raccontato e descritto come motivato da una volontà di complotto anti-americano, di distruzione del potere americano, però letto attraverso alcune delle proposizioni, delle deduzioni del suo libro, ha una motivazione, cioè c'era comunque una intenzione di attaccare l'America, quindi il dettato di Bush, con motivazioni completamente sballate, mi sembra di capire, però poi aveva, come dire, una ragione di fondo, di istinto esistente. Sì, sì, sicuramente l'attacco è un attacco al cuore degli Stati Uniti, è un attacco simbolico anche, cioè le due torri rappresentavano, diciamo, i pilastri simbolici, certo. Le icone, direi, no, del capitalismo occidentale, la cui base portante chiaramente è Wall Street e quindi l'America. E sicuramente Bin Laden dal 98 ripeteva la stessa, diciamo, stessa storia: distruggiamo l'America, distruggiamo l'economia americana. Lui ne parla spessissimo nelle epistole ledenesi, che sono, diciamo, dei testi fondamentali in preparazione dell'11 settembre. Lui spesso parla della potenza economica americana quale, diciamo, elemento egemonico che impedisce al movimento jihadista di ribellarsi e quindi di distruggere questi regimi oligarchici corrotti che governano i paesi arabi. E chiaramente il riferimento è sempre l'Arabia Saudita. Certo. Però, detto questo, erano sogni, nel senso, Osama Bin Laden non aveva assolutamente la potenza, le capacità di distruggere l'economia americana. Aveva la lungimiranza di provare a indebolirla, forse. Ma secondo me era totalmente tutta retorica, cioè, nel senso, parlava di tutto questo e chiaramente infervorava gli animi dei jihadisti. Certo. Cioè, immaginiamoci dove vivevano anche questi individui, nel mezzo dell'Afghanistan, nei campi di addestramento, con un lavaggio del cervello costante. Quindi questi sognavano, diciamo, una rivolta contro la grande America, pensando di combattere addirittura a fianco di Maometto. Insomma, la psicologia di questi individui è molto interessante quando viene studiata. Quindi loro ci credevano, però era un sogno totale. In realtà però questo sogno, in un certo senso, si avvera nel momento in cui noi, cioè l'Occidente, dà a questa organizzazione un potere che non aveva. E quindi inizia, diciamo, questa propaganda della paura, che è la base portante di una guerra egemonica, in realtà, da parte degli Stati Uniti, per riportare al centro, diciamo, del potere mondiale la potenza americana nelle aree strategiche del mondo, in particolare appunto nel Medio Oriente. E nel quale finisce versato un fiume di denaro inarrestabile, che comincia a rappresentare un'emorragia con la quale l'America sta facendo i conti ancora oggi. Infatti, questo secondo me è la parte interessante del libro, è anche questa: il fatto, non pensiamo che Obama possa risolvere la situazione, anche con se uno schiocco di dita, certo. Esatto, perché abbiamo questa eredità pesantissima che ci viene da questi 8 anni. Il debito pubblico americano, oggi come oggi, è pari al 70% del PIL. Cioè, ci troviamo in una situazione, lo so che in Italia questo può sembrare molto poco, certo, considerato il nostro debito pubblico, però in realtà per un paese come l'America è veramente una cifra, è altissimo. Quindi il presidente Obama ha un po' le mani legate, perché non può agire in determinati settori come vorrebbe, perché non c'è i soldi. Certo, quindi c'è uno scetticismo anche sul condividere un sempre più robusto filone di come dire, guardingo pessimismo o guardingo ottimismo nei confronti Obama. Ci torniamo tra qualche istante. Vi ricordo ancora che il libro di Loretta Napoleoni si chiama La Morsa, è pubblicato a Chiare Lettere, ma prima di dare la linea al traffico, ma le tenaglie di questa morsa oggi quali sarebbero? Ma le tenaglie di questa morsa sono sempre le stesse, purtroppo: da una parte la paura, diciamo, di Al-Qaeda, dall'altra parte l'alta finanza. Direi ridimensioniamo le paure di Al-Qaeda, cioè quelli che hanno imparato a navigarci dentro. Esatto, la paura è a sfruttarla, proprio cioè lo sfruttamento, diciamo, sicuramente esiste una minaccia, ma ridimensioniamola. Dall'altra parte l'alta finanza, regolarizziamo l'alta finanza, ma anche ristrutturiamo il sistema bancario. È possibile? Tutto è possibile, tutto. Va bene, continuiamo a parlarne tra poco. We'll be right back. L'impatto del Patriot Act sull'economia americana è subito devastante. Già nel novembre 2001 si registra una flessione mondiale dell'attività in dollari, sia a livello legale che illegale. La comunità bancaria internazionale non gradisce il monitoraggio dei flussi. Ai banchieri non piace neppure l'idea che in questo modo gli Stati Uniti possano perseguirli penalmente. A guidare la fuga dal biglietto verde, come si è visto, sono gli investitori musulmani, che prima dell'11 settembre hanno circa 1.000 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Ma presto altri seguono il loro esempio. Allora, stiamo chiacchierando dell'autrice del libro di cui avete ascoltato un piccolo estratto. Il libro si chiama La Morsa. Loretta Napoleoni è nostra ospite qui in studio per presentarci questo saggio che indaga le vere ragioni della crisi mondiale. Loretta, qua ci sono anche le reazioni dei nostri ascoltatori, te ne giro qualcuna. Sì. Per esempio Simo scrive: finché ci saranno le banche centrali non ci toglieremo mai di torno le crisi e i cicli. Questi sono argomenti, credo, per te. Pane quotidiano, sei d'accordo con questo sospetto nei confronti delle banche centrali? No. Cioè, nel senso, le banche centrali sono importanti perché chiaramente regolano anche il tasso di interesse attraverso il tasso di sconto. Però è vero che bisognerebbe allargare il discorso a qual è il ruolo effettivo delle banche centrali. È un ruolo indipendente o un ruolo condizionato ai vari governi? Allora, nel caso della Fed, la Fed è una società privata, tra l'altro, che però agisce come banca centrale e è legatissima sia al Tesoro che alla Casa Bianca, e quindi vediamo come Greenspan in realtà si è mosso in tandem insieme all'amministrazione Bush, perché tutte e due perseguivano una politica deflazionistica che è stata veramente disastrosa. E quindi insomma c'è da discutere. Il ciclo economico sicuramente è legato all'economia e le banche centrali dovrebbero cercare di andare contro, diciamo, il ciclo economico quando il ciclo è in discesa ed incoraggiarlo quando è in ascesa. Invece purtroppo questo non succede. Giacomo ci scrive, fa complimenti, poi dice: chiedo, non pensa che, come dice Krugman, la strategia di Geithner e Summers per uscire dalla crisi sia quella sbagliata, che è quello, sì, di cui stavamo discutendo, sì, proprio a microfoni, sì, spenti? Assolutamente, io sono d'accordo con Krugman al 100%, questa strategia. Però Krugman è un'alternativa, non è che la propone, dice che non va bene, però non dice cosa fare. Chiaramente Krugman non può, diciamo, dal New York Times non può presentare una nuova politica, anche perché sarebbe imbarazzante, diciamo. Però no, insomma, nei suoi scritti lui parla specificatamente. E dov'è l'errore? Ma l'errore è proprio nel Krugman dice una cosa giustissima che io condivido, che dice: le banche devono tornare ad essere delle istituzioni sociali dove si lavora e si fa un lavoro relativamente noioso, cioè nel senso ripetitivo. Ecco, la banca non è un po' un'utopia nell'inizio del XXI secolo? No, secondo me no, perché il problema fondamentale è la sezione finanziaria delle banche ha preso il sopravvento sulla sezione, diciamo, commerciale. Prima dell'89 esisteva una netta distinzione, tant'è vero che la maggior parte delle banche, delle grosse banche, diciamo, commerciali, aveva una piccolissima sezione finanziaria. In finanza ci giocavano, interessante la parola giocare, ci giocavano gli agenti di cambio. Poi gli ha preso la mano. Poi però con la deregulation si è data alla banca il permesso di fare anche questa attività. Allora, qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è che la psicologia proprio di chi lavora in banca è diversa da chi lavora in una società di brokeraggio. E tant'è vero che se guardiamo ai fallimenti e chi si trova adesso in crisi sono le banche, non sono gli hedge funds, non sono le società di brokeraggio, perché è chiaro che chi lavora in una società di brokeraggio deve stare molto attento con il rischio, perché sbaglia una volta, sbaglia due volte, la terza volta lo cacciano. Certo. Ma si può tornare indietro da tutto ciò? Ma no. Certo, secondo me si può tornare indietro, no, abolire la deregulation, no, però mettere dei paletti specifici, per esempio questo, la differenza tra banca commerciale e banca finanziaria, denaro raccolto attraverso la banca commerciale che non può essere utilizzato dalla sezione finanziaria, questo si può fare. Usiamo l'ultimo minuto per un'altra domanda di un ascoltatore, perché mi sembra che comunque sono poi, come dire, reazioni a quel poco che del libro di Loretta Napoleoni siamo riusciti a presentare. Tira in ballo un altro ascoltatore, tira in ballo di nuovo Obama, dice: non può ridurre l'indebitamento perché non ha abbastanza soldi, chiede, ma se fra bailout e tassi netti della Fed negativi si stanno mettendo in circolo una vagonata di carta straccia. Ah, è questo il problema, il quantitative easing che stanno facendo, che sotto un certo punto di vista è una decisione positiva, nel senso sappiamo benissimo che nel 29 la crisi è diventata da depressione a grande depressione proprio perché non potevano stampare carta moneta, perché certo, c'era la parità aura. Oggi come oggi va benissimo, si può fare, però c'è un limite. Perché? Perché tutta questa carta moneta poi deve essere tutta quanta ritirata nel momento in cui l'economia riprende a crescere e distrutta, quindi più ne stampiamo e più sarà difficile fare questo processo, e se non lo facciamo avremo inflazione galoppante. Quindi Loretta, non ci lasci con la speranza, che tutto cambierà. Ci si vincono le elezioni con la parolina. Infatti. Va bene, Loretta Napoleoni, grazie per essere stata qui con noi. Il libro si chiama La Morsa, distratti da Al-Qaeda, derubati da Wall Street, come ne usciamo, le vere ragioni della crisi mondiale, edita da Chiare Lettere. E grazie. Grazie. Jefferson 2, l'arte della svolta. Chiudiamo rapidamente, siamo in ritardo. Io sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Giacomo Spunta, la mail Jefferson2 radio24.it, le nostre pagine Facebook redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per discutere con noi. Oggi abbiamo parlato di carte di credito, lunedì naturalmente si avvicinano i 100 giorni di Obama alla Casa Bianca. Il programma va in replica a mezzanotte, lo trovate in podcast sul sito della radio. Noi ci sentiamo lunedì attorno alle 4, vi auguriamo un ottimo weekend e a risentirci qui su Radio 24. A presto.